È possibile che questi quattro scalcagnati, li chiamo io, abbiano progettato un'evasione in massa e l'omicidio di quattro persone? È possibile farlo senza essere comunque collegati a qualcosa di più grosso? In realtà i progetti, diciamo così, di carattere ritorsivo, per quanto ha riferito il collaboratore che è stato la fonte principale di queste indagini, ovvero sia il Galletto, risalivano nel tempo ed erano datati e mutuavano appunto un sistema già abbondantemente praticato all'epoca della banda a Maniero. Dopodiché, le novità sono state semplicemente l'attualità ancora di questi progetti, certamente non da parte, certamente. Presumibilmente non da parte di tutte le persone coinvolte a vario titolo in questa indagine, ma solo da parte di alcuni di essi. Dopodiché, però, io non definirei queste persone degli scalcagnati, perché si tratta comunque di un'associazione che aveva a propria disposizione, sto riferendo solo delle armi sequestrate, diciamo una ventina di Kalashnikov, oltre che vario munizionamento, 5 kg di esplosivo, bombe a mano, bazooka, e che quindi aveva un patrimonio che consentiva l'organizzazione di questi ed altri fatti di reati. Rimane il fatto che però progettare degli omicidi pesantissimi come quelli che avrebbero visto lei come vittima e un'evasione in massa, certamente ha bisogno di qualche mente raffinata che forse non si intravede tra queste persone più dedite a rapine e a spaccio di droga. Guardi, io di questo non posso parlare perché si tratta comunque di un fascicolo ancora Certo, pendente, coperto assolutamente. da segreto istruttorio. Il punto è che invece è stato definito quantomeno in primo grado il procedimento che riguardava la detenzione di armi, la commissione di rapine, di tentati omicidi e poi il procedimento avanti alla Corte d'Assise che riguardava invece un omicidio e due tentati omicidi. E che nell'ambito di questi procedimenti sono state inflitte pene pesantissime, perché è stato inflitto il massimo della pena detentiva possibile nel nostro ordinamento, ovvero 30 anni di reclusione, a più di qualche persona. In ogni caso, nella fase in cui datano questi progetti, le richieste del pubblico ministero, che poi sono state pressoché integralmente accolte, riguardavano pene fino a 30 anni. Pertanto è verosimile che la pesantezza della pena richiesta possa aver reso di nuovo attuali progetti di evasione, per esempio, per sottrarsi alla pena. Poi le pene sono state anche concretamente inflitte, non ultimo. Il 18 di giugno la Corte d'Assise di Padova ha inflitto 3 ergastoli.